الأضواء بعيداً عن الصور النمطية، برنامج برعاية ريكاردو بولي وألساندرو لونغوني وبيبي سلميتي. Ragazzi, ma cos'è sta? Cosa succede? Cos'è sta roba? No, tranquillo, allora Ricky, tranquillo, stai calmo, non è successo niente. No, che calmo? No, stai tranquillo. Ieri sera io e Longoni eravamo in giro, a un certo punto abbiamo detto questa trasmissione sta fallendo, sta ma perdendo come? Pezzi da tutte le parti, non ci abbiamo un euro, siamo dei disperati, abbiamo venduto agli arbi. Ma parla per te, scusa. Abbiamo venduto agli arbi, basta Ricky, abbiamo venduto questa mezz'ora, è stata venduta. Sì, è un'idea che devo dire mi è venuta a me, eravamo lì, che passeggiavamo alle distanze dovute dati i tempi e dicevamo sai che a un certo punto dovremmo vendere agli arabi e guarda un po' sbuca un arabo da Milano Nord, eravamo in un quartiere di Milano Nord, sì, certo, e dice ragazzi chiaro. Se la compro io la trasmissione, quindi abbiamo fatto questo affare, sì, non è male, no? Tra l'altro abbiamo guadagnato un sacco, cioè non dovremmo dirtelo, ma ci danno praticamente per mezz'ora di una cifra boh, 1 milione di euro, non 36 lo so. euro, no, ci danno ma 36 cosa? Euro a puntata. Praticamente è quasi più di un euro al minuto, se ci pensi. Se fai un conto, è tipo è 1,10 euro al minuto, che diviso 4 fa 30-40 centesimi. Secondo a me testa. È un affare, Riccardo. Sì, ma scusate, ma siete veramente i più beceri luoghi comuni, cioè che gli arabi si comprano tutto perché sono ricchi. Cioè, ragazzi, no, aspetta, no, non hai capito, Ricky. Non hai capito, dobbiamo darglieli noi. No, ma come cioè, noi? Tutte le puntate dovremmo dare 36 euro a questi arabi che abbiamo incontrato ieri sera, io e Longoni, e gli daremo 40 centesimi a testa per un totale di 36 euro a puntata, per un totale di non so quante puntate. No, guarda, non credo proprio. Credo che veramente. Ma comunque è plausibile, scusami, in realtà, che noi paghiamo qualcuno per comprarci. Guarda, questo mi. Tra l'altro, no, scusami, Ricky, ho sbagliato anche il termine. Cioè, dicendo noi dobbiamo dare dei soldi a loro, in realtà intendo tu, perché sei quello più ricco dei quattro. Ah, quindi, perfetto, comunque, benissimo. Ci sarebbe insomma quindi, da fare sta cosa. Il padulo. C'è questo piccolo elemento che devi anticipare tu. Cioè, mi piace questa cosa qua. Vabbè, Ricky, dai, è la globalizzazione. Cioè, qualcuno vende e tu paghi. Tra l'altro, la cosa più brutta della globalizzazione, secondo me, è che tutte le capitali sono uguali. Cioè, off topic potrebbe essere così a, non so, delle città, a Vancouver, come potrebbe esserlo a Tokyo. Vabbè ragazzi, allora, bando alle ciance, il luogo comune di oggi con tutto sto panegirico di arabi che ci comprano e ci rivendono è paese che vai, usanze che trovi. Questo è il luogo comune che oggi vogliamo affrontare, off topic. Un luogo comune che, come dire, non suscita grosse polemiche, no? Cioè io come primo feeling che ho di fronte a questo luogo comune è un dato di fatto. Cioè in ogni paese che vai, in ogni nazione, in ogni popolazione che vai, trovi delle usanze che più o meno puoi accettare, no? Ma siamo sicuri sia così? In realtà io sono un po' polemico perché appunto proprio a causa della globalizzazione secondo me le usanze si sono un po' tutte appiattite. Cioè la cosa che mi ha sempre sconvolto è che posso trovare, uso il termine usanze e tradizioni future, un McDonald's banalmente sia appunto a Toronto che a Bangalore in India. Quindi però scusami Ricky, si sono occidentalizzate, non si sono globalizzate. Esatto. Che poi c'è anche da fare una distinzione tra quello che avviene in città e quello che avviene in campagna, perché vabbè, puoi dirmi sì che tutte le capitali bene o male hanno sempre le stesse cose. Tra l'altro l'altro giorno ho visto un meme molto divertente di un disegno fatto da americani con scritto Every European City, cioè hanno disegnato ogni città europea che ha dal loro punto di vista. Tutti hanno una stazione, tutte hanno un fiume, tutte hanno un giardinetto dove c'è lo spacciatore, tutte hanno una città dei studenti universitari e mi ha fatto molto ridere per come siamo visti. Però dicevo, ci sono delle distinzioni tra come viene vista la città, che forse è più globalizzata, e come viene vista la provincia, perché se poi vai nella provincia in una provincia russa, diamine, troveremo un McDonald's anche lì, non credo. Allora, per parlare di questo luogo comune è qui con noi Off Topic, un'amica di Off Topic perché l'abbiamo già avuta anche sul palco di Zelig. Diamo il benvenuto a Sumaya Abdelkader. Ciao Sumaya, benvenuta. Ciao Riccardo, ciao ragazzi. Allora, tu sei consigliere comunale a Milano, ma sei anche una scrittrice, hai pubblicato per Mondadori l'ultimo libro, Quello che abbiamo in testa, e tra l'altro, novità delle novità, sei anche consulente per la sceneggiatura di Scam Italia, quarta stagione, che ha appunto al centro la protagonista sana, una ragazza musulmana, giusto? Esatto. Allora, Sumaya, volevamo presentarti ai nostri ascoltatori, per chi non ti conoscesse ancora. Partiamo con domande semplici. Sumaya, dove sei nata? Perugia. Di dove sono i tuoi genitori? Giordano palestinese. Credi in Dio? Sì. E di quale religione? Sono musulmana. Anche tu come noi conti con i numeri arabi? Con qualsiasi numero sia utile e disponibile. Porti il velo? Sì, e adoro i Queen. Ottimo. Giusto. Sei italiana? Italianissima. Quanto tempo ci hai messo a prendere la cittadinanza italiana? 32 anni. Il pesto lo fai con o senza aglio? Con l'aglio. Ah, sei salvo. Direi, scusami, senza aglio non si può fare. Tra l'altro, legandomi a questa cosa del cibo, Sumaya, in questo periodo di quarantena ho seguito il tuo account Instagram e sono rimasto molto colpito dalla quantità di cibo che hai cucinato e hai ritratto con delle bellissime foto. E la cosa bella del cibo che hai presentato era che era un cibo, si può dire, transnazionale, cioè c'erano delle grandi tipicità sia dolci che salate italiane. Ho visto dei maritozzi quasi perfetti. Tipicamente nello stereotipo dell'italiana, se ci pensate, cioè c'era una mamma a casa con tre figli, esatto, un marito che cucinava, esatto, tutto il tempo. Quindi un po' maschilista, però, posso dire, Sumaya, un po' un'immagine maschilista, cioè cucini solo tu, avrà lavorato anche tuo marito. Ma in realtà a me piace molto cucinare, è proprio una mia passione. Okay. Poi sì, anche mio marito. E gli fai lavare le padelle, lui? Sì, esatto, no, è proprio così, lui lava e pulisce, io cucino. Vabbè, mi sembra una giusta ripartizione delle cose. Quindi dicevo, maritozzi, poi ho visto delle pizze quasi perfette di stile napoletano, quindi con la crosta bella abbondante, ho visto dei ravioli ricotti e spinaci e poi ho visto una serie di dolci e di preparazioni tipiche che io non conosco perché sono ignorante, e del Medio Oriente, se non sbaglio, e quindi questa cosa mi ha colpito. Hai ricevuto qualche commento in Instagram che ti diceva torna a casa tua e queste cose falle a casa tua? No, in realtà ho ricevuto una valanga di richieste di essere invitati a casa per cucinare. Ecco, anch'io ammetto. Sì, anch'io, sì, no, esatto. C'è già Poli, è in prima linea, è il primo che si è autoinvitato. Sì, per me, io ho un menù variegato, una cucina abbastanza mediterranea, e il Mediterraneo, come sapete, coinvolge sia l'Italia che paesi arabi e non solo. E quindi mi piace attingere da tutto ciò che è la cultura mediterranea, e come dicevo prima, a me piace molto cucinare, quindi viene cade a pennello. Senti, Sumaya, quindi possiamo dire in estrema sintesi che sei un'italianissima musulmana, possiamo dire questa cosa? Sì, sì, assolutamente sì, sono un'italiana di fede musulmana. Qual è stato il gap culturale più difficile da superare per la tua famiglia in Italia, essendo voi italiani? Allora, possiamo dire che ci sono due fasi, due livelli. I miei genitori sono sempre stati considerati arabi, e quindi noi di conseguenza figli quando eravamo più giovani. Era difficile sia per i miei riconoscersi come pienamente italiani, sia per gli altri riconoscerli come italiani. Quindi c'è stata una ricerca di equilibrio per loro, per capire ormai da che parte pendevano. Invece per noi figli, quando siamo cresciuti, abbiamo maturato la nostra identità e ci siamo visti sempre più quello che eravamo in realtà. Ragazzi, ragazze nate e cresciute in Italia che si sentivano pienamente italiani. E anche qui di nuovo il problema. Negli occhi degli altri non siamo mai abbastanza qualcosa, mai abbastanza italiani. Qua in Italia i nostri parenti in Giordania non ci vedono mai abbastanza giordani o arabi. Su questo punto, scusa Sumaya, quando vai all'estero, mi viene in mente, no? E dici che sei italiana, cioè c'è qualche reazione particolare che ti ha colpito di qualcuno? Non so, che tu dici ciao, sono Sumaya, sono italiana. Guarda, all'estero accettano la nostra italianità molto più che in Italia, paradossalmente, perché all'estero sono abituati in molti paesi, in particolar modo, ad avere persone con origini altre che però sono francesi, inglesi, olandesi e così via. Quindi è quasi vissuta con più normalità. E se, quando sono stata in America e dicevo italiana, ero italiana. Quando sono stata in Giappone l'anno scorso, nella scorsa primavera, e quando dicevo italiana, ma impazzivano di gioia perché i giapponesi amano moltissimo l'Italia e cominciavano a elencarmi la Scala, Firenze, Venezia, e volevamo del sapere Piero. Esatto, volevamo sapere tutte queste cose e mi trattavano proprio da italiano. Ma ti è mai capitato qualcuno qua in Italia che ti si avvicina e ti parla lentamente in italiano pensando che tu sia araba e non parli in italiano? Sì, capita spesso. E tu cosa rispondi? Guarda che sono italiana. E cretina. Io parto a parlare milanese e ci rimangono malissimo. Sumaya, secondo te hanno ancora senso le tradizioni e le usanze adesso nel 2020? La questione non è se hanno senso o meno, la gente ne ha bisogno. La gente ha bisogno delle tradizioni e delle usanze, cambiano poi nel tempo, si sviluppano, si modificano, quello che vuoi, ma l'essere umano ha sempre bisogno di reiterare qualcosa, di sentirsi appartenente a un gruppo, a un'identità, a delle tradizioni, eccetera. Quindi sicuramente il valore e l'importanza resterà, magari cambieranno assolutamente. Grazie, mi rincuori perché avevo il dubbio che quest'anno non facessero la sagra della rana a Rovato, che è il mio paese. Ho avuto per un attimo paura. Ci potrebbe essere una crasi tra la sagra della rana e che sagra conosci? Non so, magari una sagra giordana. Esistono le sagre in Giordania? Oddio, non c'è il concetto di sagra, che credo sia molto molto italiano, molto. Ci sono delle feste in cui c'è il piatto tipico che viene proposto, e il piatto tipico giordano è il mansaf, questo yogurt di capra cucinato con la carne di agnello e che poi viene messo sul riso. Ed è molto tipico, questo c'è sempre, dal matrimonio alla nascita di un bambino fino al funerale. Ah, comunque sappiate che anche Milano non è molto adusa la tradizione delle sagre. Io da veronese, quando sono arrivato qua a Milano, ho detto: ragazzi, ma non c'è la sagra di settembre, la sagra del melone, la sagra dell'anguria? No, no, non c'era. Siamo a Milano, siamo tristi. Ma come Renato Pozzetto, scusami, hai fatto come Renato Pozzetto, ragazzo, sì, di campagna, chiaro. Sei arrivato in città e già però volevi la sagra. Riportare le tue usanze. Cioè, Poli è arrivato col trattore, non so se tu lo sai, è arrivato col trattore direttamente da Verona, è sceso, si è tagliato le unghie facendo saltare pezzi di unghie ovunque. Senti, Sumaya, tu hai più distanza secondo te dalle tradizioni culturali italiane, dalle usanze italiane o dalle usanze giordane? Cioè, la vicinanza è abbastanza evidente, parli italiano, sei musulmana, insomma ci sono molti punti di contatto con le due terre di origine, ma la distanza invece che mi interessa, a quale ti senti più distante? Sicuramente da quella giordano-palestinese, tant'è che ogni volta che vado a trovare i miei nonni ce n'hanno sempre una da farmi notare che non so fare questo, non so fare quell'altro, non so dire i modi di dire tipici loro, eccetera. Io, però per sai esempio, fare la pizza. So fare la pizza, infatti quando vado lì sempre pizza per tutti, le lasagne, lasagne per tutti, vogliono poi le mie tradizioni italiane, quindi gliele ripropongo. Ah, ecco, criticano, però poi dopo la pizza la vogliono vedere sul tavolo. E però per esempio per loro è gravissimo che io ancora oggi non riesca a fare il caffè arabo, e per loro saper fare il caffè arabo è un must proprio per tutti, e proprio io non sono capace a farlo. Girando all'estero, siccome adesso abbiamo parlato di noi in Italia e delle nostre usanze, ma girando all'estero tu qual è l'usanza più strana che ti è capitata di vedere? Beh, gli Stati Uniti che non bevono l'acqua, e questo mi ha scioccato moltissimo. Loro bevono sempre Coca-Cola, quelle robe lì. Sì. E poi in Giappone sono molto curiosi perché loro di loro portano le mascherine. Già questo mi aveva colpito. I giapponesi portano molto spesso le mascherine e loro non starnutiscono, sì, davanti agli altri. Sono molto pudici in molte loro cose che fanno, eccetera. E questo, insomma, anche il fatto di soffiarsi il naso, che è visto come una cosa molto brutta. E io che sono andata lì in periodo di allergia, dovevo soffiarmi il naso ogni 2x3, figurati. Aia. Usavo il velo per coprirmi la faccia e soffiare il naso sotto il velo. Ma invece una situazione in cui ti sei trovata in difficoltà o difficile da gestire? Ma ti dirò che non me ne viene neanche una in mente, perché io sono una che si adatta molto facilmente e riesco un po' a cavarmela in tutte le situazioni. Qualcosa di specifico adesso così su due piedi sinceramente non mi viene in mente. Comunque noi ragazzi abbiamo fatto una richiesta ai nostri ascoltatori chiedendo qual è la cosa più strana, parlando di usanze, no? Paese che vai, usanza che trovi, chiedendo ai nostri ascoltatori di mandarci dei vocali sulle usanze più strambe che hanno visto all'estero. Devo dire che le signore ascoltatrici, le ragazze ascoltatrici di Off Topic, il sesso femminile, si è dato grande affare perché hanno risposto in moltissime ragazze. Quindi sentiamo il primo contributo, Andrea. Paese che vai, abitudini che trovi. Se c'è una cosa che io detesto quando vado negli Stati Uniti è il fatto che ti servono qualsiasi bevanda, compresa l'acqua normale, con il ghiaccio, perché ti prende un colpo tutte le volte. Quindi quando sono andata a Hong Kong per lavoro e magari durante i meeting ti chiedono vuoi bere qualcosa, vuoi bere acqua? Sì, certo, ti portano sempre una tazza di acqua bollente ed è una cosa che a me rilassa tantissimo, perché effettivamente tra l'aria condizionata e tutto è molto bello avere questa acquetta calda che ti sistema lo stomaco. Un'altra cosa invece che mi ha fatto un po' strano andando a Singapore è che lì per legge non puoi masticare chewing gum, cioè sono vietate per legge, quindi praticamente anche negli aeroporti duty free sono pieni di caramelle morbide che sono chewable, che sono masticabili, per ovviare a questo inconveniente per cui chi arriva da fuori non può masticare chewing gum. Perché uno non può resistere giustamente, certo, dal masticare qualcosa, no? E allora hanno rimediato. Ma ragazzi, ma e sarà 10 anni che non mangio una cicca? Voi mangiate ancora le cicche? No, mi fanno mal di stomaco. Sono passate di moda, sono no? I vecchi. Sì. Poi fa male ai denti. Ecco. Sì, però tuo marito è dentista, quindi giochi in casa, è facile, no? In Svizzera ci si bacia 3 volte sulle guance tra amici e gli amici sono i soci, anzi il miglior amico è il soci merda, e quindi se lo incontri dici buon ciao soci merda, non so se si possa dire ma dicono così. Ma che simpatia gli svizzeri, soci merda. Scusami, ma perché tengono poi al plurale soci? Sarebbe socio merda, non lo so, vabbè, no. Ma gli svizzeri sono belli per questo. Ragazzi, dai, cosa hanno gli svizzeri di tradizione? Gli zoccoli, gli orologi a cucù e le mucche, cos'è? Sì. Boh, basta. E quelli, scusami, e gli italiani svizzeri hanno la macchina con le minigonne e le marmitte grosse, almeno così soldi, si diceva ai tempi. E i soldi. Siamo al programma dei luoghi comuni, ce lo concederete, per forza, cari ascoltatori. La premessa è: non sono mai stata in Giappone, ma ho un'amica che, giuro, ci vive da più di 10 anni. Lei mi racconta sempre che quando si entra in un locale, in un ristorante, oppure si va a casa di qualcuno, cosa un po' più rara perché insomma in Giappone la soglia di casa è piuttosto sacra, ti offrono sempre una bevanda calda. Quando ti offrono un bicchiere d'acqua fredda, volete sapere cosa significa? Che dovete telare, andare via subito. Ragazzi, questa abitudine è bellissima e direi di importarla adesso, vedi, a questo serve questo programma, usi e costumi importati, cioè quando venite a cena a casa mia la prossima volta proverò a darvi dell'acqua fredda e vediamo se vi sai Beppe, è un ottimo sistema perché Longoni tendenzialmente si installa nelle case degli altri, non va mai via, tipo alle 4 di notte sei lì che stai dai Longoni, tu vai in casa degli altri, la prima domanda che fai è posso togliermi le scarpe, la seconda è ti dà fastidio se mi arrampico su questa parete? Non ne vedo il motivo, ma va benissimo. Poi vado in bagno. Scusami, posso leccare il tuo armadio che lo vedo abbastanza fresco? Sì, fallo, sì, però non ha senso. Chiamo il mio avvocato che non ho. Quando bevo sembro Forrest Gump. Mi risveglio nel tenente Dan. Da questa giungla come un Viet Cong. Torno a casa dopo il Vietnam. Fai il parancione tipo Donald Trump. A Milano mercio con il tram. Mi perdo pure con il tom tom. Potrei ballare pure il can-can. Non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Allora, questa tra l'altro era una delle canzoni della colonna sonora che, di Scam Italia, per cui tu sei stata consulente per la sceneggiatura. Ricordavamo all'inizio della trasmissione che Scam, la quarta stagione, è incentrata sulla figura di Sana, una ragazza musulmana velata che adolescente, diciamo, tribola un pochino nei confronti del contesto. Tu, tra l'altro, Sumaya, hai 2 figlie, giusto? Sì. E se non sbaglio, correggimi, una porta il velo, l'altra no, che è un grande tema di dibattito sulle tradizioni culturali italiane, no? Su come integrare questo velo nella nostra società. Sì, sì, sono 2 adolescenti, una di 17 anni e l'altra di quasi 16, e esatto, una ha scelto di portarlo, l'altra di non portarlo. Quindi sei stata tu, hai voluto ricreare un conflitto in casa praticamente. No, nessun conflitto, ognuna ha fatto la sua scelta, la sua strada e non c'è stato neanche bisogno di parlarne, insomma. In realtà quando la grande ha scelto di portarlo, io ho fatto un po' di resistenza perché volevo che ci pensasse bene. Le ho detto prenditi del tempo, aspetta magari all'università, quando entri all'università ci pensi un attimo. Sono riuscita a prendere 6 mesi in più, ma poi si è svegliata una mattina che me la sono trovata velata. Gli ho detto, senti, fai come ti pare. Anche perché lei mi ha detto, ma non sei tu quella che sostiene la libertà di scelta delle donne, bla bla bla. insomma, mi ha messo nell'angolino, ho alzato le mani e ho detto fai come ti pare. Ha usato i tuoi stessi strumenti. Ti faccio una domanda un po' provocatoria, Sumaya, ma secondo te il velo potrà mai diventare una tradizione in Italia? Ma il velo è stato tradizione in Italia, questo dovremmo ricordarcelo, che fino a pochi decenni fa era tradizione per molte donne indossare un foulard in testa per entrare in chiesa, per andare in certe occasioni, e poi non è nulla di nuovo. Maria, madre di Gesù, è velata, le suore si velano. Il velo non è un'invenzione dell'Islam, non arriva con l'Islam. L'Islam lo adotta in pratica, gli dà un suo senso e si ripropone, ecco. Ma le donne che portano il velo in modi più diversi è una tradizione antichissima. Quindi basta scavare un pochino nella memoria e troviamo le tradizioni che ci portano ad essere più vicini di quanto noi pensiamo. Sì, basta vedere alcune feste locali di molte città italiane, tutti gli abiti tradizionali sono di donne velatissime. L'abito tradizionale sardo è famosissimo, prevede un certo velo che sembra a guardarlo assolutamente il velo di noi donne musulmane, e così tante altre tradizioni regionali o locali italiane. Più di un anno fa sei stata aggredita dopo una conferenza a Milano, mi pare di, se non ricordo male, da una donna, ti ha addirittura sputato addosso. Cos'è che è successo? E cosa ti ha detto? Ma in realtà lei usciva da una conferenza stampa a Palazzo Marino, no. Io stavo entrando a Palazzo Marino per andare in commissione, lei ha incrociato il mio sguardo, io le ho fatto un sorriso, insomma, di saluto, non la conosco la signora. Pensava ti facessi esplodere, scusa. Ma no, ma Sumaya, non te l'abbiamo detto, non devi mai sorridere. È la prima regola. Soprattutto ai milanesi che si incazzano, sono di fretta, non devi. C'hanno da lavorare i milanesi. Ho fatto l'errore di sorriderle e niente, me la sono vista proprio dietro, sul collo, che ha cominciato a urlarmi: maiale, maiale, torna al tuo paese, fai schifo, siete tutti dei maiali, dei porci, insomma. Urlava di cuore, come se le avessi fatto chissà cosa. Io che stavo entrando... Che poi maiale manco lo mangiate, cioè che senso, cioè un insulto completamente accessorio, senza motivo, non mangiate neanche il maiale, cioè capito? Ma appunto, perché per quello ha pensato di ferirmi di più. Io stavo entrando in ascensore, in realtà in quel secondo arrivava il mio collega che è grosso e alto 2 metri, l'ha guardata e ha detto: signora, ma cosa sta facendo? Insomma, lei ha indietreggiato. L'ascensore ha chiuso le porte, ma per un errore ha riaperto le porte, non so perché ha riaperto, e lei mi ha rivisto e ha ricominciato: maiale, maiale, tu appunto nel tuo cuore. Come nel peggiore film horror. Scusa se ridiamo, però cioè, sembra. Sì, no, anche a me, io non so più se piangere se ridere. Mi ha preso un po' la sprovvista, quindi mi ha turbato, perché proprio ero contenta quel giorno. Quando arrivi contento, devi fare delle cose, eccetera, poi ti trovi questa scena. E io purtroppo sono un po' abituata, perché non è la prima volta. Però lì mi ha proprio preso alla sprovvista. Poi in uno spazio che io reputo molto sicuro, un'istituzione, la casa dei milanesi, eccetera, ci sono rimasta molto male. E la figura di Sana, che è la protagonista di Scam Italia, risulta forse un pochino stereotipata agli occhi di chi guarda diciamo la serie, molto ligia al dovere, deve impegnarsi il doppio delle ragazze italiane per poter, italiane nel senso italiane non musulmane, per poter essere accettata. Non è forse un po' troppo uno stereotipo nel 2020, oppure c'è ancora quest'idea? No, la caratteristica di Sana è appunto non essere stereotipata. Lei è la rappresentazione di una bella fetta di ragazze musulmane che si trovano esattamente nelle sue condizioni, a dover ancora oggi, nel 2020, far fatica per essere riconosciute come italiane in primis, ma anche come ragazze e donne che fanno un percorso di fede liberamente, non costrette da qualcuno. E questo è invece lo stereotipo, che tutte le donne musulmane siano costrette a portare il velo, a sposarsi, a altre cose. Invece Sana dimostra l'esatto opposto, che è lei che sceglie, che è lei che fa un suo percorso di fede e fa fatica a convincere gli altri che è davvero così. Sì, c'è una battuta che lei dice, no, credo questa l'abbia proprio scritta tu, perché ce l'avevi detto anche a Zelig: e se ti dicessi che nessuno mi obbliga a mettere il velo, è che la mia è una scelta femminista? Punto di domanda. Sì, questa è mia, tra l'altro viene dal mio libro, dal mio ultimo libro, è stata ispirata da quello, è una provocazione, ma fino anche a un certo punto, perché se dici femminismo e lo leghi al velo, tutti storcono il naso, insomma, nessuno riconosce nell'indossare il velo un gesto femminista. E invece diventa un gesto femminista nel momento in cui è un gesto libero, scelto liberamente, con consapevolezza, e anche un gesto di autodeterminazione propria, spirituale, del proprio percorso di fede, che diventa un esercizio spirituale. Questa è la provocazione, ma anche la realtà. Allora, ragazzi, io saluterei Sumaya e la ringrazierei per essere stata con noi su questo luogo comune, paese che vai, usanze che trovi, e nel salutarlo ricorderei una frase che mi ha fatto molto ridere di Scam, ovvero un ragazzo non musulmano che si avvicina a Sana, la protagonista musulmana, e dice: vorrei uscire con te, vorrei mettermi insieme a te, e lei ha detto: sai, dovresti circonciderti per essere il mio futuro marito. Ecco, direi che questa usanza per adesso noi tre credo potremmo anche risparmiarcela, per adesso. Ovviamente è una battuta. C'è gente che l'ha presa sul serio. Hanno tutti pensato che nell'Islam per convertirsi bisogna circoncidersi per forza. No, è una libera scelta. Chi vuol farlo lo fa. In alcuni paesi, tipo gli Stati Uniti, lo fanno quasi tutti. Quindi sono pratiche. È una pratica abbastanza diffusa tra gli ebrei, i musulmani, gli americani, eccetera. E niente. Vedete voi se volete proprio. Insomma, conosco un bravo chirurgo. Va bene, ci affideremo a te. Allora, grazie mille, Sumaya. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, direi che possiamo solo che ricordare di ascoltare tutte le nostre puntate. Le trovate su tutte le piattaforme podcast, principalmente Spotify, o anche sul sito di Radio 24. Poi seguiteci su Instagram. Siamo su Instagram, vedete le nostre storie, fate like alle nostre foto, seguiteci e lì verrete aggiornati su tutte le nostre progetti e cose. Fate like alle nostre foto se vi piacciono, eh. Comunque mi piace sempre moltissimo il momento Mastrota di Alessandro Longoni, cioè io sì, oggi ho voluto farlo sintetico. Vabbè, ci trovano anche su Twitch, dai, buttala lì. Ci trovano su Twitch, facciamo dei video, delle dirette la mattina, la sera, non sapete mai quando le facciamo perché siamo così, un po' matti. Beppe, a te la chiusa. Ah, vuoi una chiusa? Vuoi una chiusa? Certo che ho una chiusa. Guarda, prendo una frase. Sapete cosa dovremmo fare per avvicinarci ad altre culture? No. Dovremmo sempre entrare in punta di piedi e limitarci ad essere ospiti, spesso sgraditi. In punta di piedi. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.